Stiamo aggrappati alla parabola, che è raccontata tra una premessa e una conclusione. La premessa, Gesù disse una parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e un pochino disprezzavano anche gli altri. La conclusione è che il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo. A scanso di equivoci, non è che siamo di fronte a uno cattivo e uno buono, perché anche lui, il fariseo, era convinto, però questa convinzione aveva un tarlo dentro, no? Così sicuro di sé. Comunque niente, vediamo. Due uomini quindi, un religioso e un uomo di fede. Gesù mette a confronto l'atteggiamento volontaristico, perbenistico del fariseo, tutto soddisfatto della propria fedeltà alle pratiche religiose. La fedeltà era vera, erano le pratiche che non erano. La condizione del pubblicano, un agente delle tasse, quindi immaginate con l'impero romano, era dentro in un sistema ingiusto e avvertiva che era dentro in un sistema ingiusto e aveva un bisogno di misericordia, lo esprime. Notate, nel fariseo la religione è un'autogiustificazione soddisfatta, è un'ideologia che dà sicurezza alle proprie scelte. La legge dice, io quindi sono obbediente a questa legge. Un desiderio di misericordia invece nel fariseo. Qual è il punto critico del tarlo dentro in questa, stavo per dire, impietosa osservanza della legge? È che non azzardava a mettersi a confronto con la nuova immagine di Dio che Gesù andava, anzi, questo bestemmiava Gesù, secondo lui. Nel pubblicano la preghiera è un'apertura, è come una vertenza, confronto fra Dio e la propria vita, è una tensione per il cambiamento. Ora, questo confronto tra i due personaggi, più che un giudizio, lo possiamo accogliere come un annuncio. Questo è l'atteggiamento che ci porta a leggere questa pagina del Vangelo. Ma un annuncio che ci interroga. Faccio due considerazioni. Una prima considerazione. Cosa significa un uomo fedele e giusto davanti a Dio? Cosa vuol dire? Viviamo in una situazione storica, che è la nostra, una realtà che è anche piena di contraddizioni e quindi carica anche di ingiustizia reale. Come dire, ci si trova a vivere una condizione di ingiusti. Non è una questione di colpa mia, colpa tua, colpa loro. Siamo dentro nell'ingranaggio. Tutti siamo dentro in questa realtà. È inutile mistificare o far finta di niente. È vero anche che abbiamo imparato a non fare i lamentosi delle situazioni. Guardiamo in faccia le cose così come sono, da adulti, maturi, responsabili. E quindi ci dichiariamo che siamo dalla parte della giustizia. Ma come? Ecco la seconda considerazione. La pongo con degli interrogativi. Se ci mettiamo dalla parte del fariseo, guardiamo le nostre mani e diciamo: ah, non sono sporche, sono pulite, facciamo del male a nessuno. Mentre attorno ci sono gli ingiusti. E qui le categorie mettetele voi. Oppure concentrati su noi stessi, magari anche sul nostro impegno, la nostra fedeltà, la nostra coerenza morale. Però diamo tempo a fare i giudici, anziché prenderci responsabilità per modificare le situazioni sbagliate. Oppure ci sentiamo a posto perché abbiamo fatto i nostri doveri religiosi, le pratiche, le preghiere, la messa della domenica, i pellegrinaggi a Padre Pio, Medjugorje, adesso quello che mi viene in mente, ma no, tutte cose rispettabili. Diciamo che siamo dalla parte della Chiesa anche. Non siamo critici con l'istituzione. Ah, dentro nel Tempio, vai, silenzio. E invece la parola di Dio ci vuole critici proprio dentro nel Tempio, proprio dentro nell'istituzione. Sì, sì, rispettiamo anche le gerarchie, naturalmente, anche se coltiviamo qualche volta qualche dubbio, il che non è male. Se ci mettiamo invece dalla parte del pubblicano, Gesù rovescia questa posizione e fa nascere nella nostra coscienza il luogo sacro di Dio, la nostra coscienza, dei precisi appelli. Noi non siamo migliori degli altri. Siamo fedeli, sì, e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non abbiamo motivo di giudicare dalla parte della coscienza, ma il nostro compito è di contribuire a modificare le strutture che sono ingiuste o a migliorare quelle che magari già funzionano benino. Siamo contenti e ringraziamo le persone, il Signore, quando insieme, organizzati, insieme ad altri, riusciamo a far avanzare il bene comune. Perché sto dicendo questa cosa? Sentiamo che è giusto far nascere e crescere in noi la fede del pubblicano, il cui Dio non è un accessorio che consola, che gratifica, che ti dà una carezza, ma è un Dio che scruta i cuori. Oddio, no, se Dio scruta i cuori non vuol mica dire che è lì il vampiro che va a cercare che cosa c'è nel cuore degli uomini. E però è l'immagine, è lo specchio dentro il quale noi, la nostra coscienza, può confrontarsi. Li mette in crisi i nostri cuori, però dona anche liberazione. Andò a casa giustificato, quindi libero nel proprio cuore. Proprio per questo l'atteggiamento del pubblicano sfocia in una preghiera sincera e penitenziale. O Dio, abbi misericordia, sono anche peccatore. È una preghiera capace di renderci più umili perché più veri. Quindi più veri perché con la voglia di cambiare, di trasformare la nostra vita per renderla più felice insieme con gli altri. E quindi destinatari del regno di Dio. Chiudo. Il pubblicano prega presentandosi a Dio con grande realismo. Ah, per me la preghiera è questa. Signore, sono questo. Le ho combinate, le ho aggiustate, non ce l'ho fatta, sono inzappato, sono sfiancatino, sono questo. Accettando di essere conosciuto da Lui per ciò che Egli è, un uomo che ha bisogno di misericordia, lui, Pierino. Solo chi ha il cuore spezzato, Salmo 51, da questa consapevolezza può rivolgere a Dio la preghiera dell'umile che, come dice il Siracide, penetra le nubi. Questa è la nostra preghiera. Voi che siete intelligenti andate avanti, fate le vostre considerazioni. Gloria a Dio nel nome del Signore.